stiamo andando un po' troppo verso la direzione del pensiero unico e questo non va tanto bene. Su questo sono molto d'accordo con te. E comunque, detto questo, i nostri ascoltatori più i nostri fans, i nostri quattro ascoltatori che ci ascoltano tutti i lunedì, sanno benissimo che io sono un super fan di Jenny Owen Youngs ed è uscito un nuovo suo disco, un nuovo suo pezzo, e dunque vi interrompo immediatamente e metto su Merry Go Round di Jenny Owen Youngs. Sentiamolo subito. Wow. Wow. The faded blue, how do you fade it? Took all you had to just survive it. Of color drains and you're incredibilmente sono già le 19:15 e non abbiamo ancora detto niente praticamente, e perché abbiamo Chiara Nicolodi, è assessora alla cultura del comune di Bentivoglio, cioè che mica caffi che io dico sempre il paese alla periferia dell'impero. Esatto, l'impero siamo noi. Non mi sento proprio parte di un impero, però ai margini della Bassa è un po' così, ho capito. Poi noi ci troviamo tra Bologna e Ferrara, nella Bassa veramente, tra la nebbia adesso, certo, e siamo un po', ci sentiamo un po' isolati da tutto il resto, però insomma cerchiamo anche di accogliere gli stimoli della città e del fatto che rientriamo comunque nella città metropolitana, assolutamente, e quindi abbiamo anche la fortuna insomma di... Ma siete l'ultimo comune della città metropolitana? Ce ne sono ancora dove? No, ce ne sono ancora. Ti faccio delle domande di geografia. Ce ne sono ancora. Io sono completamente impreparato sulla città metropolitana, perché è una novità che non so, adesso tu magari che sei assessora? Assessore, insomma. Okay. Io sono per la differenza in generale, non... Okay. In generale, ecco, perché bisogna secondo me partire da quello, da non più dall'uguaglianza, non siamo tutti uguali, siamo tutti differenti. Esatto. E questa differenza è l'alterità che ci contraddistingue, che secondo me su cui dobbiamo puntare e su cui i giovani già stanno puntando e sono largamente avanti. Noi siamo ancora a queste dicotomie. Su questo sono d'accordissimo, e fra l'altro appunto questa essere tutti diversi è una cosa che ha molto a che fare con la filosofia naturalmente, e anche poco a che fare con la politica, nel senso che la politica tendenzialmente tende ad eguagliarci tutti, mentre invece rafforzare la diversità è più complicato naturalmente, no? Assolutamente. poi sono tempi in cui, insomma, diciamo, come diceva prima Anna Maria, il pensiero unico sta un po' coinvolgendo un po' tutto, esatto. Per cui è difficile anche avere una linea differente. Però, insomma, si cerca attraverso la cultura, e questo è il grande poi compito di noi assessori, insomma, di noi assessori alla cultura, quello di cercare di portare la diversità e di rendere i giovani sempre più attenti magari a tematiche contemporanee, e siamo noi che impariamo da loro e loro che si aprono a noi. Che non si aprono tanto questi giovani d'oggi, o sbaglio? Ma i giovani d'oggi sono sempre nel nostro pensiero molto difficili da acchiappare, quindi a volte ci domandiamo come fare appunto cultura per loro, ma forse dovremmo chiederlo a loro. Ah, certo, assolutamente. Dovremmo coinvolgere. Io quello che ho capito nella mia esperienza, ormai sono 3 anni che lavoro su tutte le fasce di età, ma ho capito che bisogna veramente lasciargli la possibilità di esprimersi e di darci veramente loro la direzione, di dirci dove vogliono andare. Seguirli, ovviamente, tenerli accanto, però sicuramente hanno le idee molto più chiare di noi. Io dubito fortemente che i giovani d'oggi alle 19:18 stiano ascoltando Radio Città Fujiko, ma non si sa mai. Se state ascoltando Radio Città Fujiko e avete qualcosa da chiederci, il numero per mandare un WhatsApp, Telegram o un SMS è il 333 180 94 94, e dovete sapere che potete mandare anche i vocali, perché infatti c'è un pazzo che si chiama Marco Roma, che salutiamo, che lui quasi tutti i pomeriggi, primo pomeriggio, manda degli audio. Adesso ve ne faccio sentire uno, sentite un po', Buongiorno a tutti i miei colori, vedo questa mattina anche se piove, mi piace cantar così, con queste melodie così, alla rinfusa, io sono così. Il Natale vicino per tutti voi da Marco Roma. Buongiorno. Boom boom. Grande Marco. Mitico. Devo dire, questo l'ha mandato oggi e nessuno della redazione di Radio Città Fujiko l'aveva ancora ascoltato. Poi ne ha mandato uno il 10, uno il 9, uno l'8, uno il 7, per cui praticamente tutti, quasi tutti i giorni, no? Ha fatto un salto tra il 3 e il 6 dicembre. E così, per cui, insomma, adesso non ho capito se ha capito che su Coxo Spaziale ogni tanto lo facciamo sentire, ma spero che prima o poi se ne accorga. E così ci mandi anche dei vocali appositi. Tra l'altro intonatissimo, vero? Complimenti. Bravo, infatti. Adesso uno di questi giorni ce lo becchiamo a Sanremo così. Beh. Oddio, aspetta che abbiamo un messaggio da perché tu, Anna Maria, non posso neanche ascoltarvi che sto andando a yoga. No, il nostro giffo, chiamato anche Oscar Moroni o Fuga per Art. Tu sei stata l'unica persona al mondo che l'ha conosciuto di persona, praticamente. Cosa ci vuoi dire di lui? No comment. Silenzio stampa. Silenzio stampa. Beh, lo prendiamo come un complimento, dunque. No, non lo so. E invece Luisa, raccontaci di te. Che mi guardi di sottecchi dall'altra parte del vetro. Speravo ti fossi dimenticata. Mi fai un po' paura. Sinceramente. No, assolutamente. No, vabbè. Io insegno italiano, storia e geografia in una scuola media, sempre della Bassa, a Castelmaggiore. Ah, ok. Non sono molto lontana da Bentivoglio. E che si dice da quelle parti? Cosa si dice? Si dice che in effetti dovrei ascoltare il consiglio di Chiara e far decidere ai ragazzi cosa interessa loro, perché è abbastanza complicato. Cioè, io sono e dunque un po'... insegneresti tipo videogiochi se facessi così? Ma oddio, se facessi così probabilmente sì. Non so se un po', guarda, sarebbe molto nel senso, devo riuscire a capire qual è la maniera per farli esprimere, e perché non, cioè, io li mando gli stimoli, no? Certo. Che chiaramente piacciono a me, cioè nel senso, le cose che interessano a me, anche al di là chiaramente del programma, perché poi il programma è quello, in qualche modo cerchiamo di portarlo avanti, però cercando comunque di trovare delle alternative per stimolarli. Però sì, devo dire che a volte mi sento un po' frustrata, nel senso che ho come la sensazione che, poi è chiaro, dipende dalle classi, no? da questa atmosfera che si crea all'interno di ciascuna classe, però alcune classi sono molto lente, cioè molto lente, cioè hanno bisogno di tempo, no? E a volte io il tempo mi rendo conto che sono un po' impaziente, quindi gli metto loro anche abbastanza fretta. Ma infatti è esatto, cioè, quando hai detto impaziente mi è venuto in mente questa sorta di fretta, pressione che noi diamo alla nuova generazione, esatto, e che loro cominciano a difendersi su questo, no? Sì, esatto, loro sono immobili, cioè nel senso che di fronte alla fretta loro rispondono con l'immobilità, il silenzio. Però questa, ma secondo te siamo noi che stiamo dando troppa pressione a loro? Sì, secondo me sì, decisamente. Perché comunque io vedo, appunto, lo vedo anche nei miei studenti che sono un po' più grandi dei tuoi, ma molti di loro sentono proprio la pressione. Sì, le aspettative. Esatto, cioè si sentono schiacciati dalle aspettative che noi adulti abbiamo. Esatto. Cioè, in effetti, forse l'atteggiamento migliore sarebbe, sì, mandare uno stimolo, però forse senza aspettarsi niente. Perché, cioè, adesso sto pensando a una mia alunna con la quale il primo anno avevo veramente tantissimi problemi, non riuscivo proprio a interagire con lei. Beh, ci ho messo 3 anni. Cioè, 3 anni per avere qualcosa, forse quando mi sono arresa, probabilmente, cioè il momento in cui ho deposto le armi, lei ha cominciato. Ed è stata lei che mi ha aperto il varco attraverso il quale io sono potuta entrare, ma ci ho messo 3 anni. È complicato. Sì, forse è quello, forse è quella la via d'uscita. Boh, non so, forse sì, mandare degli stimoli e poi aspettare, però appunto poi magari non risponderanno a me, risponderanno a qualcun altro, certo. Perché chiaramente io sto lì 3 anni, cioè nel senso, beh, che 3 anni comunque è meglio di uno, insomma. Sì, esatto, però magari, non so, tipo dopo 5 anni coglieranno quello stimolo in qualche maniera. Io faccio una cosa che di solito in radio non si fa: mi è arrivato un vocale e lo mando senza ascoltarlo così. Allora, è ancora alzato, sentiamo un po'. Ma sì, che vi sentiamo anche un pubblico più giovanile, diciamo. Io ho 26 anni e spero di rientrare nel giovanile, dai. Io volevo sapere, non so se è troppo il tema, però quale può essere un approccio che si può avere con i bambini durante dei laboratori didattici, creativi, perché è un po' l'ambito in cui mi vorrei specializzare io, e il dubbio che ho sempre è qual è il limite tra giocare nel mentre che si fa apprendere qualcosa con i bambini e anche tenere invece un ruolo più autorevole, di guida, distaccato. Io faccio sempre una gran confusione, perché o rischio di diventare la più piccola dei bambini mentre sono con loro e mettermi anche a un livello più basso, oppure di tenermi fin troppo distaccata e algida. E insomma, se c'è un consiglio, che non sia solamente la giusta misura, ecco. Ringraziamo questa grazie ascoltatrice misteriosa che ci ha mandato. Grazie per la fiducia. Infatti. Anna Maria, direi che la risposta è tua. Allora, io consiglio sempre di essere autentici, cioè secondo me con i bambini e con i ragazzi bisogna essere veri, perché loro hanno delle antennine e riescono davvero a capire tantissimi i nostri linguaggi, no? Che non sono soltanto nella parola, ma sono anche nel nostro sguardo, nel modo in cui ci muoviamo, nel modo in cui noi ci porgiamo a loro. E capiscono subito se non siamo autentici o se siamo in una qualche maniera cercando di conquistare il loro favore, oppure se stiamo assumendo dei meccanismi di difesa. Quindi io consiglio tantissimo l'essere spontanei, l'essere sinceri e l'essere autentici. Poi io nei miei laboratori tendenzialmente parto da delle suggestioni, no? Quindi non arrivo con dei pacchetti troppo preconfezionati e sono io che devo portare il mio pacchetto a loro e loro lo devono prendere. Io parto con uno stimolo, dopodiché ascolto tanto e cerco di capire quali sono le piste che loro vogliono seguire. Quindi sono io che mi adeguo a loro e non faccio in modo che siano loro ad adeguarsi a me. E devo dire che un'altra capacità che secondo me bisogna avere è quella di sapersi far meravigliare da loro, no? Non aver paura del fatto che loro possano sorprendere o possano meravigliare, ma al contrario, cioè farsi travolgere da questa meraviglia che loro hanno e cercare un po' di seguire appunto le loro piste, le loro direzioni. E devo dire che poi mi porta a casa tantissimi bellissimi risultati, perché ne esco io arricchita, quindi imparo io qualcosa di nuovo, di diverso, ho diverse visioni. Questa cosa mi piace davvero tantissimo. Poi con loro non conta tanto l'essere autoritari, conta la verità con cui noi diciamo delle cose, no? Quindi l'autorevolezza con cui noi portiamo degli argomenti, le cose che vogliamo dire a loro devono essere autentiche, devono essere sincere, e da lì innescare proprio un fluido circolare assolutamente spontaneo. Questo è un po' quello che io cerco di fare con loro. Fantastico. E utilizzare loro mille linguaggi, no? Perché non ci parlano solo con un linguaggio, quindi delle volte possono prediligere per esempio l'utilizzo del movimento, il corpo, oppure magari disegnare, oppure magari un canale con il quale loro comunicano tantissimo è il disegno. Quindi delle volte non attendo, io faccio filosofia con i bambini, ma non attendo come risultato dei miei laboratori un'argomentazione espressa soltanto tramite delle parole, ma per esempio delle volte loro mi porgono i loro disegni, allora lì il disegno diventa un veicolo di espressione molto importante che io devo avere la capacità di saper cogliere. Quindi essere autentici e porsi tantissimo in ascolto. Non c'è niente che i bambini o che i ragazzi fanno che vada male, tutto va bene e tutto può essere materiale di lavoro con loro. Ci ha riscritto di nuovo e si chiama Giulia, la ragazza che... E ti ringrazia, dice grazie della risposta per niente scontata ma ispirante. Wow. Che bello, grazie Giulia. Spero di incontrarti. Sara, per il tuo successo. Sono Cesare Pietro Iusti e questo è Coxo Spaziale. Che invece non è vero, questo non era per niente Cesare Pietro Iusti. Ma ritorniamo a noi, anzi, no, mi interessava perché nel frattempo stavamo chiacchierando sui laboratori con i bambini. Mi raccontavi che alle volte sono loro che ti portano completamente in un altro posto, ma e dunque tu adesso, Anna Maria, stai continuando a insegnare, a fare laboratori di filosofia per bambini o hai... No, continuo. Assolutamente grande. Non potrebbero mai mancarmi. Fantastico. Sì, continuo a farlo. Immagino che sono un po' di anni adesso che lo fai. Sì, sono un po' di anni, ho interrotto per mio malgrado per qualche anno perché mi occupavo di una fascia di età, erano 0-3 anni, quindi okay. Età nido, quindi troppo piccolini, certo. Anche se in realtà io penso che il pensiero filosofico nasca dalla domanda infantile per eccellenza, che cos'è? domanda socratica, esatto, no? Quindi bambini del nido, è un continuo che cos'è. Mi chiedevo se qualche tuo ex studente ti abbia già detto: ah, prof, mi ricordo, maestra, mi ricordo che questa cosa mi ha aiutato, eccetera. No, perché mi è capitato, ma in un'altra tipologia di laboratori, okay, che erano laboratori un sacco di anni fa, sull'uso e abuso di sostanze stupefacenti, in cui utilizzavo questo metodo per informare i ragazzi e le ragazze su un uso consapevole delle sostanze stupefacenti e i loro effetti. Quindi partivo dal presupposto che non doveva avere un approccio "no, questo non si fa", certo, ma discutere insieme a loro affinché arrivassero a una scelta consapevole in una direzione o in un'altra, però l'importante è che fosse una scelta consapevole. Quindi era un approccio molto teso a ragionare, all'argomentare, al condividere, no, pensieri e posizioni su questo tema. E lì mi è capitato di aver incontrato dei ragazzi che hanno prima di tutto apprezzato questa tipologia di approccio, perché non si sono sentiti giudicati. Certo. Qui hanno percepito proprio la libertà di poter parlare in un clima di fiducia e condividere con me le loro domande, no? Perché è una condivisione di domande. Spesso si parte dal presupposto che i bambini e i ragazzi già sappiano, no? Perché trasferiamo a loro il nostro pensiero adulto, e invece ci dimentichiamo che loro hanno bisogno di imparare. Ah, certo. Quindi spesso pretendiamo che certe cose le sappiano già senza che abbiamo fatto lo sforzo di spiegargliele. Allora, nel momento in cui loro capiscono, no, che si parla insieme, si cerca di capire insieme, hanno la possibilità di esprimere i loro dubbi, apprezzano molto questa tipologia di scambio. E quindi lì abbiamo fatto diversi percorsi molto interessanti su questi temi, e mi è capitato che loro più avanti, incontrandomi, mi abbiano dato una restituzione molto bella, quasi commovente a tratti, perché mi ricordo un episodio: avevo fatto una formazione in un liceo, credo fosse a Righi o al Fermi, li avevo invitati al pomeriggio, di un sabato pomeriggio. Io all'epoca avevo uno sportello in centro, in Piazza Maggiore, all'Informa Giovani. Mi sono ritrovata tutta la classe al pomeriggio all'Informa Giovani, perché volevano continuare a parlare di questo discorso insieme a me. È stato davvero molto molto bello, sì. Anche lì utilizzavo diversi linguaggi, no, che sono molto vicini ai giovani, perché noi spesso per parlare con loro usiamo solo le parole, ma non sono sufficienti. Spesso possono servire i fumetti, oppure magari possono servire i video musicali, oppure i film, per far partire un discorso, uno scambio con loro. E quindi lì avevamo visto dei film, avevamo continuato a parlare insieme di questi temi. Ho capito. Chiara, invece, come funziona per quel che riguarda, per esempio, l'aspetto giovanile e le sostanze stupefacenti, il tuo comune, cioè un argomento complesso che magari in questi 5 minuti di conversazione non basta, però cosa fate di bello voi, vabbè, in generale, ma anche rispetto a questo, per esempio? Ma, perché sono due cose che vanno naturalmente molto a braccetto, no? Sì. No, infatti mentre parlava Anna, mi veniva in mente questo, no? Che molto spesso sono abbandonati perché non hanno luoghi dove esprimersi. Esatto. Perché, infatti, ok, abbiamo detto che la scuola è sicuramente in primis no, il luogo della formazione, dell'incontro, della conoscenza, ma anche della crescita. Però poi c'è tutto il resto. Allora, chi non ha passione o verso la musica o verso il corpo, e quindi la ginnastica e tutte le attività, rimane un po' appeso lì. E io quello che continuo a sostenere è che per i giovani servano dei luoghi, sì, ma non dei luoghi attrezzati. Secondo me proprio servirebbero delle stanze vuote, e lasciarli e dirgli: magari questo è il tuo compito, io ti lascio questo spazio e il tuo compito è creare qualche cosa. Ovvio che devi esserci nelle loro richieste, però vedere che cosa riescono a fare in uno spazio vuoto. Solo che spesso è difficile poi convincerli a venire in questo spazio vuoto. Sì, ma anche avere i luoghi adatti, perché è sempre una questione di responsabilità. Noi cerchiamo di veicolare, di insegnare a loro a prendersi le proprie responsabilità, ma siamo i primi che poi, quando dobbiamo delegare, facciamo molta fatica. Certo. Sì, sì, no, in effetti ne parlavo anche con un amico l'altro giorno, proprio del fatto che i centri sociali a Bologna adesso sono solo pieni di vecchi, perché sono coloro che li hanno creati e sono rimasti lì, per cui i giovani non vanno più nei centri sociali, vanno al TPO, capito? Vai al TPO, o vabbè, tutti gli altri sono stati sgomberati, per cui è rimasto solo quello, però... No, però dici bene, perché secondo me quei luoghi, vabbè, noi forse eravamo già più grandi, però... Immaginati poter entrare in un luogo, poterlo costruire, poterlo far diventare, cioè, un sogno che diventa realtà, e in più anche imparare a fare, perché non scordiamoci che anche tutto quello che è legato al fare ai ragazzi piace. Il teatro, perché poi piace veramente tanto. E guarda, ieri proprio ero alla fine di un percorso che abbiamo fatto su, che si intitolava Voci Europee, e c'era una restituzione appunto dei ragazzi, degli adolescenti sul tema europeo, a parte che era meraviglioso perché erano di tutte le etnie e quindi già quello era rappresentativo dell'Europa, ma la carica di questi ragazzi che avevano fatto un laboratorio di 5 sedute, quindi niente, capito, pochissimo, e l'impegno e il rigore, cioè, Mary, io sono rimasta senza parole, cioè proprio ho visto una professionalità e ti giuro che non, pensando a questa cosa l'ho voluta, l'ho voluta come esperienza, perché ho detto come veicolare la cultura europea, beh, partiamo dal teatro, partiamo dalla letteratura, raccontiamoci attraverso le voci degli altri. Però non pensavo che avremmo coinvolto i ragazzi in un modo così. Invece, secondo me, quando dai responsabilità, ma dai anche, e qui sono d'accordo con Anna quando dice appunto l'importanza di fargli esprimere attraverso più linguaggi. Ecco, secondo me il linguaggio anche del teatro, e quindi del corpo, della voce insieme, gli aiuta tantissimo a trovare una propria dimensione, così come la lettura, e quindi il poter diventare altro attraverso la narrazione dei libri, anche questo secondo me aiuta all'empatia e quindi alla crescita e a una maggiore condivisione del pensiero collettivo, insomma. E perché è così difficile convincere i tuoi colleghi politici all'importanza di queste cose? Cioè, tu che sei, sei dentro, no? Sì. Ci sei dentro fino al collo e ti occupi appunto di cultura all'interno di un sistema politico. Perché in Italia la cultura è così svilita? Perché è così difficile convincere i politici che la cultura è importante? Perché lo sappiamo che è importante. Basta... Perché fa paura, secondo me. Cioè, un popolo che è capace di avere un pensiero indipendente, capace di riflessione, e quindi gli può insegnare la filosofia dai 3 anni, se non prima, fa paura. È meglio un popolo a cui diamo appunto quello che vogliamo, le serie che vogliamo, i programmini che vogliamo. Ecco, in Italia secondo me spesso, non tutto, adesso non voglio generalizzare, perché c'è gente che lavora seriamente e per fortuna. Infatti. Però diciamo la maggior parte cerca, cioè fa sì che la cultura diventi divertimento. Ecco, secondo me questa cosa è un po' deleteria, perché la cultura può divertire assolutamente, però non può essere anche appunto vissuta con una serietà e una profondità che ci deve essere, insomma. Quindi penso che i politici abbiano paura di questo, di lasciare uno Stato in mano a un popolo critico, con un pensiero critico. Ti interrompo un attimo, perché a proposito di cultura andiamo a vedere che cosa succede questa settimana a Bologna. L'angolo della menzione. Dunque, mercoledì dalle 16 nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna si svolgerà la premiazione dei vincitori delle ultime 2 edizioni di Plutôt la Ville, scusate il mio francese ma non l'ho mai studiato. Il premio Roberto Dall'Oglio per l'arte pubblica, e verrà presentato il nuovo bando 2021-2022. L'evento vedrà la partecipazione straordinaria di Jorge Horta, artista argentino che con la moglie Lucy Horta ha fondato nel 1992 a Parigi lo studio Lucy and Jorge Horta. Nella sua lezione, dal titolo Arte e pratiche collaborative, racconterà l'esperienza artistica del duo che, utilizzando diversi media, tra cui disegno, scultura e performance, pone questioni sulla sostenibilità ambientale, sul senso di comunità, sui diritti fondamentali dell'uomo, ed è basata sulla dimensione relazionale e partecipativa. Verranno inoltre premiati i giovani artisti della sesta e settima edizione e presentato il bando dell'ottava, giusto? Sì, per gli studenti dell'Accademia. L'ingresso all'evento è aperto anche al pubblico esterno fino a un esaurimento posti disponibili senza prenotazione, con Green Pass rafforzato obbligatorio naturalmente. Questa è l'Accademia di Belle Arti in via Belle Arti 54, mercoledì 16 alle ore mercoledì non è il 16? Ok. Adesso scopriremo se è mercoledì 15 alle ore 16 o il 16, ma lo trovate su www.coxospaziale.blogspot.com domattina. E dov'è? Ok. L'angolo della menzione. Non era proprio lo stacco, mi sono dimenticato lo stacco, allora niente stacco oggi. Dopo, giovedì 16 alle 18.30 invece Parsec inaugura la mostra It Ends With Nostalgia. L'esposizione si focalizza sulle ambivalenze del sentimento nostalgico, proponendo una rilettura di tipo sociologico di questa attitudine individuale e collettiva attraverso le opere di Gwendalina Cerruti, Francesco Hayez, Satyan Rizzo e il libro Raising Moths, Attempts at Musical Ekphrasis on... Oddio, perché questo è Ozonos, Watering a Flower di Federico Antonini e Sergio Savini. Scusatemi, il libro non è pronunciabile. Il progetto espositivo intende rintracciare una continuità tra lo sguardo nostalgico del ritratto dipinto da Hayez, Studio per il grande quadro, I profughi di Praga, e un sentimento più contemporaneo proiettato su un futuro perduto nelle opere di Cerruti e di Rizzo. Tutta la giornata di giovedì 16 sarà inoltre dedicata all'autofinanziamento. Questo è Parsec in via del Porto 48/CD a Bologna. Datemi un secondo che vado a prendere il mio stacchetto, perché non posso rimanere senza lo stacchetto finale. Dov'è? Intanto stiamo ascoltando la musica di sottofondo, è il disco che abbiamo ascoltato la settimana scorsa con i cosi, come si chiamano, i nostri Central Unit. Eccolo, è arrivato il mio stacco. Dopodiché venerdì 17 alle ore 18 inaugura Vite Silenziose, personale di Mauro Mazzali a cura di Sandro Malossini, all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 50. La mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio, gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi, e naturalmente come al solito troverete su coxospaziale.blogspot.com tutti i dettagli anche di questa mostra. Dopodiché sabato, cosa succede sabato? Ah no, sempre venerdì. All'MTN, Museo Temporaneo Navile di Bologna, inaugura una mostra che si intitola La città delle sculture di Alcide Fontanesi. A un anno dalla sua scomparsa, MTN, il Museo Temporaneo Navile, intende fare una sintesi della straordinaria vicenda creativa di Alcide Fontanesi, Reggio Emilia 1926, Bologna 2020. Il progetto espositivo sottolinea gli aspetti della sua opera. Della sua opera, adesso l'ho perso completamente, plastiche e pittoriche di Fontanesi, che fungeranno da centro dal quale sarà possibile, anche grazie a un supporto critico e una mappa resa disponibile dal museo, conoscere le opere pubbliche presenti sul territorio di Bologna. La mostra, curata da Marcello Tedesco, partecipa al programma ufficiale di Art City 2022 e dunque è probabilmente la prima che inaugura per Art City 2022, che è alla fine di gennaio, e sarà accompagnata da un testo critico di Valeria Tassinari. E trovate tutto su www.museotemporaneonavile.org. sabato invece alle 18.30 abbiamo R2, The Moment Right Before, inaugura il 18 dicembre alle 18.30 presso lo spazio R2 di Strada Maggiore, ideato con la partecipazione di adiacenze, è un focus dialogo su e fra le opere di Elisa Mulier e Karin Andersen, non più dunque una stanza delle meraviglie, ma un ecosistema indipendente, popolato da creature, esseri e visioni che fanno parte di un mondo altro, già rappresentato da Andersen e Mulier nel loro percorso artistico e che si uniscono per questa occasione. Dopodiché mi faccio un po' di pubblicità da solo. Dalle 16 alle 20 alla Casa della Cultura Italo Calvino di Caldera di Reno c'è la seconda parte del mio workshop Obsolete Shit, dove io e Massimo Summa coinvolgeremo il pubblico lavorando sull'autoritratto fotografico e l'arte della magia. L'evento è libero e aperto a tutti, si chiede solo di portare la propria macchina fotografica analogico e digitale e essere pronti per fotografarsi e farsi fotografare. Di nuovo troverete tutti, per se vi volete registrare trovate tutto su www.coxospaziale.blogspot.com da domattina. Eccoci qua, abbiamo finito. Queste erano tutte le menzioni per questa settimana e torniamo a voi. Anzi, no, magari prima riprendiamo un attimo il fiato. Vi volevo far sentire magari non tutto, ma un pezzetto di un pezzo che il cantante si chiama Il Tipo di Iesi e ha fatto una cover di Mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano. Adesso è uscito stamattina, mi è arrivato oggi per email, anzi ringraziamo Peyote Press che me l'ha mandato, e lui appunto si chiama Il Tipo di Iesi e non parte. Coraggio di operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore, non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. La la la la la la. Il Tipo di Iesi, si chiama, anzi mi scuso col Tipo di Iesi, lo sto già abbassando perché dobbiamo ancora dire un sacco di cose, giusto? Esatto, dai, ditemele voi. Abbiamo preso un po' il filo con tutte queste notizie, questi eventi, infatti, queste iniziative. No, io vengo sabato, vengo subito a fare. Ah sì, dai, fantastico, ti aspetto. Sabato scorso abbiamo fatto il laboratorio si chiamava Laboratorio Libero e Gratuito di Disegno dal Vero. Beh, abbiamo quello già avrei difficoltà, no, però invece, sulla fotografia forse ci posso arrivare. La fotografia è più facile, naturalmente. Invece io che l'ho visto ti dico che c'era una danzatrice che danzava facevano disegno dal vero mentre questa ragazza danzava. Hai visto che sono preparata, grande. Stefano? Sì, no, abbiamo fatto quattro esercitazioni, una diversa dall'altra. Nell'ultima, la più difficile, dovevano disegnare mentre lei ballava. Disegnarla mentre lei balla, perché fare la modella da fisso sono capaci tutti, ma farla mentre ma quindi balla. Insegni disegno tu? No, io in realtà insegno tecniche grafiche speciali. Però tra l'altro colgo l'occasione per aggiungere questa cosa, secondo me è una cosa deleterissima, sì. È pretendere che i nostri ragazzi condividano le loro idee, i loro pensieri stando fermi. Io sono una che rivendica l'importanza del movimento soprattutto a scuola, perché è davvero, non c'è niente che ammazza di più il pensiero che stare fermi, seduti, immobili, perché è proprio una postura in cui sei lì a introiettare nozioni, perdi un sacco di attenzione, di concentrazione, acquisti stanchezza, quando invece in realtà si imparerebbe di più e meglio muovendosi, facendo cose, esprimendosi comunque. Quindi secondo me è davvero molto importante, muovendosi si pensa meglio. penso che questa sia un'altra delle contraddizioni della scuola, no? Cioè, come adesso un'altra, e penso proprio al disegno, no? Che all'asilo ti fanno disegnare 20 ore al giorno, dopodiché arrivi alle elementari, disegni nell'ora sbagliata e ti arriva una cazziata spaventosa, capito? Alle medie addirittura la creatività viene stroncata, e questa è un'altra cosa che in effetti quando usciamo dalla scuola, cioè, ci si aspetta da noi che ci muoviamo velocissimi, no? Che siamo prontissimi e veloci nel movimento anche mentale, esatto, no? La famosa elasticità. Infatti spesso si dice fermati e pensa, quando in realtà bisognerebbe dire muoviti e pensa. Muoviti e pensa, infatti. Una delle cose più terribili, nel quale ho dovuto davvero tanto trattenermi, è stata sentire che in alcune circostanze veniva utilizzata come punizione lo stare fermo a leggere un libro, che è quanto di più diseducativo può essere mandato come messaggio, ecco, no? In effetti, cioè, se pensi a quello come punizione, diventa, cioè, senso, se tu associ... Non ho capito, leggere un libro e stare fermi, io non riesco mica a leggere... No, cosa vuoi dire? È capitato in alcune situazioni in cui alcuni insegnanti, per correggere, tra virgolette, dei ragazzini che magari erano un po' esagitati, ma perché semplicemente forse anche un po' stanchi di stare tutta la mattina seduto al banco, come punizione gli hanno detto adesso non fai la ricreazione, stai seduto al banco e leggi. E leggi, che certo. È una cosa che proprio, se vogliamo ammazzare la cultura, sì, esatto. Quello è. Più che altro è obbligarlo a star seduto a leggere in un momento in cui, cioè, per punizione, cioè, leggere per punizione. Si associa alla punizione. La lettura ed è bisogno, cioè, mentre magari appunto nati per leggere sta tentando di fare esatto. Tutto un discorso completamente diverso, sì. Proprio perché comunque anche noi leggiamo meno della metà di 10 anni fa, immagino, no? Sì. Cioè non legge più nessuno, io me ne accorgo da quando mando i comunicati stampa di quello che faccio, che se non scrivo tutto nella prima riga già la seconda non la legge più nessuno, ma non la leggono neanche gli addetti ai lavori, quella è la cosa. Sì, per questa mancanza di tempo, no? Infatti, tutto così, sì, veloce. Che poi è una mancanza di tempo finta. Ma è finta, esatto. È completamente finta questa mancanza di tempo. Mm-hmm. Infatti un'altra cosa che secondo me bisognerebbe tentare di creare sono proprio momenti di tempo, cioè degli spazi di tempo in cui non devi pensare al tempo che scorre, mentre invece noi ci guardiamo, abbiamo 4 orologi e io sto continuando a controllare l'orologio proprio perché... Sì, infatti una cosa che avevo provato a fare in classe era quella di fare tipo 10 minuti di meditazione, no? E allora, sono tantissimi. Sì, no, 10 minuti, loro. Forse 5 minuti, okay. 5 minuti, 10 sono veramente tanti, sono già tanti per noi, figuriamoci per dei bambini. No. Però no, semplicemente chiudere gli occhi e concentrarsi sulla respirazione, no? Vabbè, mettendo una mano sulla pancia, ascoltando l'aria che entra e l'aria che esce. Beh, devo dire che me lo chiedono tutti i giorni, prof, ma quella cosa che dovevamo fare dove... cioè, alla fine gli è piaciuto tantissimo. Fantastico. Cioè, soprattutto quelli più piccoli, quelli più grandi, poi chiaramente ci sono, tipo su 27, due facevano molta fatica a stare in silenzio, ad ascoltare il proprio respiro, cioè si erano veramente molto innervositi, infatti mi hanno detto vorrei spaccare qualcosa, tipo. Ah no, interessante anche quello, naturalmente. Sì, certo, chissà perché. Invece Chiara, io ti volevo prima di salutarci, perché il nostro tempo sta per finire, ti volevo chiedere a Bentivoglio che cosa dobbiamo venire a fare a Bentivoglio, cosa succede a Bentivoglio. No, innanzitutto ti volevo una promessa da te, che d'ora in poi mi spedirai che cosa succede a Bentivoglio. Ah, volentieri, così io così posso lo puoi inserirmi dire. Nell'angolo. Sì, molto volentieri. Menzioni. No, per ora insomma abbiamo finito con tante cose e adesso verso Natale abbiamo sempre la nostra festa di piazza, ecco, dove staremo insieme per prima delle feste in convivialità, cose appunto ci vogliono anche queste. Assolutamente. Però chi vuole venire a Bentivoglio può venire sicuramente a vedere un bellissimo castello dei Bentivoglio, è un palazzo storico molto molto interessante che si chiama Palazzo Rosso. Che è anche sede della biblioteca di Bentivoglio, quindi già poi può gustare, può venire anche a vedere assolutamente il Museo della Civiltà Contadina, certo. Che è meraviglioso. Che io ho visitato tipo in seconda elementare e non sono mai più. Ah, guarda, ieri proprio con Luisa c'è stato appunto una giornata dedicata al gusto e ai sapori contadini, e quindi ci siamo trovate con Luisa lì con questa giornata stupenda, pieno di laboratori per bambini ma anche per adulti, dal cestaio al pane, anche lavorare con il tessile, quindi con la lana, con il cotone, con la canapa. No, dai, cerchiamo di portare sia un aspetto innovativo che cercare invece anche di lavorare sulle tradizioni e di non perderle, insomma. Fantastico, io vi ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie. Grazie. Spero di rivedervi presto a Coxo Spaziale. Quando vuoi ci inviti. E voi venite, fantastico. Chiara Nicolodi, Anna Maria Reis e Luisa Barbano. Giusto. Vabbè, Barbano, dai. Barbano, non ce la posso fare. No, ma è una parola piana, come la maggior parte delle parole italiane. No, ma sono io che sono rincoglione. È il fatto che in Piemonte sbaglio tutti le pronunce dei cognomi, e dunque. No, vabbè, però la sbagliamo quelli. Spesso la mia. Barbano, oh, okay. Sì, non ti preoccupare, Barbano. Non sei il solo. Ok. Stai tranquillo. Questa era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini e ci risentiamo lunedì prossimo. Abbiamo una puntata molto interessante. Parleremo del concetto di realtà. Wow. Esatto. Ci ascolteremo. Per cui non perdetela. The end. It's the end of the Jenny Stream. We've had some highs, we've had no low, low, low, lows. It's the end of the Jenny Stream. I am super bummed now that it's time to go. It's the end of the Jenny Stream. And I'm super bummed that it is time to go. The cuckoo for a ticker, a hook in the arc, on wiki mama. Kafaka mana watia. Kafaka mama. Fuck a man on what's here.